Sto andando bene, sto andando male. Sì. Sì, sei tuffo. Capita che freddo. Non mi tocchi. No, sono a conquista. Che bello. Se non vai un cane. Tutti morti sono tutti a Santo Paolo. A visto leva, il freddo. E si sono intanati sotto terra. Allora, fratello, mangiatele. Buoni, Dani, bella bene. Giù, giù. Ci vuoi lasciare, vuoi dormire. Direttamente, ecco la B, giù, no, no, giù, metto giù, quello sa, provate anche io. Cuffo! Avanti!